Da altro ancora. Settembre-ottobre 74. Ma il sangue di Allende veniva giù nero. Dalla giugulare si spargeva per il tappeto, stillava, tic, tic, dalla ferita, tutta labbra e orecchie, si cagliava per terra la ITT, la General Motors, la Esso Standard Oil, la Company and Company and Company and Company, giù, chine, a bere il suo sangue nero. E dopo vennero cadaveri che nessuno di noi vivi potrà raccontare mai. E l'alchimismo mi si scioglie, quanto si scioglie evapora il proposito di non perdere la calma, di dire cose oggettivamente, neutralmente, freddamente, oggettive e neutre e fredde. Come svanisce, evapora, e siamo a Firenze. Siamo a Firenze, ti immagini? In loco, l'emozione, la passione, te le figuri, il su e giù del sangue, alla bandiera, alla stella, al canto, alle plazas, agli stadi a piani, pallidi. Te la figuri, l'emozione, minotaurica, schiumosa, la storia, pipa di radica, da fumare. Qui siamo a Firenze, città terra. E poi che te ne fai del bello? Lo friggi? Lo mangi? Se neanche gli danno le case, che te ne fai? Lo struggi a pezzi al posto del burro? Utilità, bellezza, bandiere, pezza, legno, rosse, fino in fondo. A questo tramonto vai piano, rosso sì, rosso che c'è di male. Rosso, dietro la porta che sfila, rosso, nel corteo che sfila, rosso, nel rosso corteo che sfila cantando, bello, e rosso, tramontante qui e ora, qua presente, 11 di settembre, presente qui e ora, domani, rosso e rosso, con alberi intorno, rampicanti rossi, 11 settembre, le 7, il sole rosso scalda gli orecchi, entra dentro, le 7 di sera da qui a Cile, rosso il diospero, Dio spero, che rotola il rampicante, le scaglie, rosso, c'è rosso, grini, sangue qui e ora, domani chissà.